già nel titolo dello striscione, insomma, che aprirà la manifestazione contro i fascismi di ieri e di oggi, sta a significare il fatto che nella giornata del 25 aprile, che celebra giustamente la vittoria della resistenza appunto sul nazifascismo e pone fine a una dittatura che durava da decenni nel nostro paese, oggi c'è la necessità di continuare quel tipo di battaglia, perché comunque non è che con il 25 aprile del 1945 il problema sia stato risolto. È tornato di stretta attualità negli ultimi anni. Oggi con il governo giallo-verde, Lega, Movimento 5 Stelle, sono sdoganati tutta una serie di comportamenti che fino a qualche tempo fa i fascisti non si azzardavano appunto a rendere espliciti. Poi, oltre a questi comportamenti, che va dai fatti di Torre Maura, dove è stato calpestato il pane, è stato impedito la sua distribuzione perché appunto era un messaggio simbolico ma molto forte, che intendeva il fatto che certe persone per questa gente non possono esistere. L'ultimo episodio, quello dei giorni scorsi, del raduno Nazi Rock nel paese, in provincia di Verona, nella data della nascita di Hitler, insomma. Poi nel corso di questi ultimi mesi abbiamo visto aggressioni ad omosessuali, abbiamo visto intimidazioni a insegnanti di scuola, abbiamo visto il convegno di Verona per riproporre una logica della famiglia da medioevo, insomma tutta una serie di situazioni che fanno capire la gravità del problema. Aggiunto a questo c'è ormai una prova tecnica quotidiana di regime, un vero e proprio fascismo istituzionale che si vede in diversi provvedimenti che questo governo ha preso. L'ultimo in ordine di tempo è quello delle zone rosse, dove si introduce da una parte una figura del prefetto simile a quella del podestà nel periodo fascista e dall'altra si introduce una sorta di diritto penale del nemico, dove non vengono contestate le persone singole, i fatti, ma la stessa partecipazione a una classe sociale, a un ceto sociale viene visto come qualcosa di problematico, quando nel decreto si fa riferimento a zone dove insistono i centri sociali, dove ci sono situazioni abitative di disagio, dove si fa riferimento che in alcuni parti della città certe figure sono sgradite, quindi si parla di DASP urbani, misure già introdotte anche dal precedente decreto Minniti, ma che oggi vengono ratificate e rafforzate. Tutto questo porta a un'attualità estrema questo tipo di problema, insomma, quindi è giusto il 25 aprile non ricordarlo come viene fatto a livello istituzionale con semplici celebrazioni commemorative, ma come giornata di lotta contro i fascismi di ieri e di oggi. Ecco, il corteo concretamente come si svolgerà, da dove partirà? Il corteo ha un concentramento in Piazza Unità alle 10, poi verso le 10:30-11 partirà, farà una fermata davanti all'XM24, perché come simbolo dell'autogestione in questa città, l'autogestione secondo noi è una forma per combattere il fascismo e la discriminazione, quindi l'XM è sotto attacco da tempo, ci sarà appunto una fermata del corteo, poi si passerà per via Carracci, si andrà verso Piazza Maggiore, si fermerà un po' davanti a Scala dei Caduti, poi si arriverà in prefettura, altro appuntamento dove il corteo si fermerà, ci saranno interventi appunto per parlare delle cose di cui parlavo prima. Insomma, proprio perché vediamo anche nelle politiche istituzionali degli elementi di fascismo molto preoccupanti. Poi il corteo riprenderà la sua marcia, arriverà in piazza San Francesco, insomma proprio ai limiti di piazza San Francesco per poi confluire e sciolsi nella giornata di Fratello Resiste. Un aspetto importante del corteo è il fatto che durante il percorso verranno distribuiti dei pezzi di pane, proprio perché pensiamo che anche simbolicamente sia importante contrastare i messaggi che i fascisti oggi lanciano, quindi a partire dalla vicenda di Torre Maura parleremo del pane, parleremo di una cosa che forse pochi si ricordano, pochi sanno. Il 9 settembre del 1943, un giorno dopo l'armistizio, in tutto il territorio bolognese ci furono delle manifestazioni che sfociarono in vera e propria rivolta da parte delle donne che videro l'assalto agli ammassi del grano, proprio perché nei giorni precedenti i fascisti avevano requisito i raccolti dei contadini e per spedire questo grano in Germania. Allora, dato che oggi si parla molto spesso dalle forze di estrema destra, la Lega, che si lancia lo slogan prima gli italiani, lì si vuole dimostrare che questi fascisti, che fanno riferimento appunto ai fascisti di allora, a quel tempo rubavano il grano e di conseguenza il pane alla povera gente per portarlo in Germania. Quindi ci sarà questa distribuzione con un testo, perché vogliamo appunto lanciare questo messaggio. Il titolo di questa operazione è Il pane che fa paura ai fascisti. Poi ci sarà sempre nel corso del corteo un ricordo di Orso, il ragazzo fiorentino ucciso in Rojava, perché vogliamo parlare anche di questi antifascismi, come è necessario combattere i fascismi in tutte le loro forme, sia quelle dell'Occidente sia quelle dei paesi del Medio Oriente, come può essere il caso dell'ISIS.